Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi appisolai con un occhio vigile e un paio di volte il mio ospite si alzò piano. Io pensavo, ora va a frugare nelle mie borse. E invece no, era soltanto per ravvivare il focolare. Mi chiamo Roberto, vivo a Mondovì, ho 35 anni e lavoro in un caseificio di famiglia. È stato su un treno che da Milano scendeva verso la Sicilia ed erano ormai quasi 20 anni fa, la prima volta che ho dormito, che ho condiviso uno spazio con degli sconosciuti totali. Erano saliti a Bari, erano una coppia di signori anziani che andavano a trovare i figli in Sicilia e durante quelle ore di viaggio, che comunque erano tante, da Bari fino a Palermo, lui mi raccontò di quando da ragazzo trasportava ceramiche, non so per quale motivo, non credo che le facesse, ma trasportava ceramiche a dorso di mulo dalla Puglia alla Calabria attraversando la Sila e dormendo sotto le stelle. Era un signore di circa 80 anni, aveva una voce profondissima e mi raccontò questa storia di come da ragazzo faceva a piedi per 4 giorni la Puglia, la Calabria, e arrivava a vendere le sue cose, poi sempre con il mulo tornava indietro. Erano 20 anni fa ed era appunto la prima volta che dormivo con un degli sconosciuti. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è sempre Voi siete qui. Sono le 16:09, quasi 10 minuti in punto. Noi raccogliamo storie, raccontiamo storie e oggi raccontiamo una storia particolare, la storia di Roberto, che in realtà fa un'avventura particolare che non capita a tutti, durante la quale però gli succede una cosa che non in questi termini però succede nella vita, di condividere uno spazio molto intimo, che è quello della notte, quella del sonno, con una persona che non conosci, che non sai chi è, non sai cosa farà e non sai che cosa vuole da te. Semplicemente non vuole niente, probabilmente dormirà anche lui, però la notte, come spesso succede, fa fare strani pensieri e brutti sogni. Sul profilo Facebook del programma Voi siete qui, Radio 24, ad esempio, Marco scrive: la prima volta che ho dormito con uno sconosciuto era nelle camerate dei corsi animatori, e poi ancora gli ostelli e le giornate mondiali della gioventù, ma soprattutto gli scompartimenti Cuccetta in treno. Brunella: fine anni 70, prendevo il treno con Cuccette da Roma a Milano o Ventimiglia e viceversa, in uno scompartimento con 5 sconosciuti, però sempre quella in alto. Evidentemente avevamo tutti interesse a dormire per essere pronti e pimpanti il mattino dopo. In treno, in automobile è un po' diverso, in traghetto, ma anche in una catapecchia, ma in un ostello ad esempio, e in una qualche strana camerata, la notte in cui avete dormito con uno sconosciuto e avete capito che quello spazio lì era uno spazio molto intimo. Voi siete qui, Radio 24 è il profilo Facebook, Voi siete qui, R24 è il profilo Twitter, se avete voglia di raccontarci dei pezzi di quelle notti, oppure 349-238-6666 se avete un telefono di primissima generazione o anche uno di seconda o terza, ma volete mandarci un sms. Se invece volete continuare a mandare storie, noi le raccogliamo, siamo in diretta tutti i giorni, da lunedì al venerdì, e l'indirizzo di posta è Voi siete qui, @radio24.it. Pensateci tutto il giorno, pensateci anche domani, per tutta la settimana. Poi prendetevi un'oretta di tempo, vi mettete lì e scrivete una storia che vi è successa, che in qualche modo racconti di voi, e noi ci facciamo una puntata. Torniamo alla storia di oggi, perché Roberto, questa cosa di mettersi lì, ragionare un po' e scrivere una storia l'ha fatta, e questa è quello che ne è uscito. Non vedevo l'ora di partire e di ritornare. Lo diceva il protagonista di un romanzo di Carmine Abate che stavo leggendo nel 2003. Era l'anno della tesi di laurea. Una nuova fase della vita mi attendeva al varco, con molte incognite e nessuna certezza. Durante quei mesi le stesse espressioni mi frullavano in testa di continuo. Partire, tornare, partire, tornare. Ecco, quindi, come alcuni mesi dopo la laurea, partì. Presi una bicicletta, vi attaccai un portapacchi, agganciai al portapacchi 12 kg di bagaglio e cominciai a pedalare. Destinazione Vladivostok, ultimo avamposto russo sul Mar del Giappone. Ci arrivai in 106 giorni e 10.000 km. Ed ecco invece in che modo tornai da Vladivostok. Convinsi una fredda impiegata della ferrovia transiberiana che una bicicletta era un bagaglio come un altro, e salii sul treno. Nel giro di 15 giorni avrei rivisto casa. Sono partito da solo, senza particolari contatti. Qualcuno che ho incontrato sul percorso, lungo il percorso, poi abbiamo mantenuto i contatti. Sdraiato su una cuccetta di terza classe con l'aria viziata ed un monotono paesaggio all'esterno, il tempo scorreva molto stancamente. Talvolta però capitava che la via ferrata incrociasse strade su cui ero transitato in bici durante il viaggio d'andata. Provavo allora a ricordare. Ecco, lì è dove mi sono fermato a chiacchierare con un bambino tartaro. Lì ho pedalato mentre nevicava. In quel chiosco ho mangiato zuppa di cavolo e barbabietole. Verso i Monti Urali riconobbi l'edificio in cui trascorsi una notte 2 mesi prima e richiamai alla mente l'episodio. Era l'inizio di maggio, davanti a me e alla mia bicicletta un interminabile rettilineo di saliscendi tagliava a metà i versanti dei colli ancora imbiancati. Raffiche gelide arrivavano da nord, soffiando violentemente in direzione opposta alla mia. La zona era quasi deserta, pochissime auto di passaggio e il primo villaggio 50 km più avanti. Una distanza proibitiva, poiché pedalando controvento stentavo a toccare la velocità media dei 14 km orari. L'oscurità incombeva e si concretizzava l'ipotesi della notte alla ghiaccio, malaugurata dopo un'intera estenuante giornata in sella e in quelle condizioni climatiche. Ormai rassegnato all'idea, vidi alla sinistra un edificio, frenai e provai a bussare e qualcuno aprì. «Ho bisogno di un posto per dormire», dissi imitando i modi asciutti e privi di cerimonie dei russi. Mi fece entrare. L'atrio era una grande stanza, completamente vuota. Ci poggiai la bici. Oltre, saliti 2-3 scalini, la penombra del crepuscolo lasciava intravedere una mensola con qualche stoviglia, un lavandino, un tavolo, delle sedie e un paio di vecchi divani. Nessuna lampadina. L'unica luce artificiale arrivava dalla stufa a legna. Il russo, un giovane ben piantato sulla trentina, fece cenno di sedermi al tavolo, mise a bollire dell'acqua e ci versò da una busta un preparato per minestrone. Mangiamo uno di fronte all'altro, illuminati a malapena dalle fiamme che ardevano alle mie spalle e scambiando pochissime battute in quella situazione surreale. Non c'era posto per convenevoli e curiosità. Poco dopo ricevesi una coperta, mi sdraiai su un divano. Altrettanto fece il giovane. Fuori ormai era buio pesto. Così il fuoco proiettava alle pareti enorme ombre dai movimenti imprevedibili, minacciosi. Mi appisolai con un occhio vigile e un paio di volte l'ospite si alzò piano e sussultai nel dormiveglia: ecco, ora va a frugare nelle mie borse. E invece no, era soltanto per ravvivare il focolare. Solitamente dormivo dove capitava, che voleva dire ospitato da qualcuno o in alberghi locali, alberghi tra virgolette, oppure dove capitava in ricoveri di fortuna. Al mattino i raggi del sole scalzarono le ombre. Il samovar bollì l'acqua per il tè mentre la stufa scaldava alcune fette di pane scuro. Subito dopo la frugale colazione varcai l'uscio e mi rimisi in sella. «Spasiba, molte grazie, signore». Mi accomiatai porgendo la mano e osservando fugacemente il viso dell'uomo, che abbozzò un sorriso. Ripresi il medesimo interminabile rettilineo del giorno prima. Vladivostok era ancora lontana. Oh, it's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society. To believe, I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without. C'è un dettaglio nella foto che ci ha mandato Roberto dal quale si capisce che è un ciclista o quantomeno sta facendo un percorso in bicicletta. Non è la bicicletta che sta tenendo in mano, non è nemmeno il panorama alle sue spalle, che credo sia Vladivostok. È, anzi, facciamo così, non ve la dico nemmeno, andatela a vedere la foto. C'è un dettaglio che è evidente: questo è un ciclista. Pronto Roberto, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi? Mi trovo in una piazzola di un'autostrada. Perché stai andando o stai tornando da dove? Sto tornando da... sono sull'autostrada Torino-Savona. Ok. Sto andando verso il lavoro. Che lavoro fai, Roberto? Lavoro in un'azienda di famiglia, facciamo formaggi freschi, mozzarelle, io mi occupo della contabilità dell'amministrazione. Ah ok, fai la parte diciamo meno saporita del tutto. La parte meno saporita, sì, ma anche la parte per la quale bisogna alzarsi più tardi e non di notte. Ah, perché invece il resto della famiglia si alza a che ora di notte? Qualcuno si alza all'una di notte, qualcuno si alza alle 4, qualcuno alle 5, io di solito... orari più tranquilli. Quindi, come dire, l'immagine della famiglia italiana che si alza tutta insieme a far colazione e festeggia, si beve il tè, mangia i biscotti, non esiste. Uno all'una di notte e stacca le sue per conto suo, poi uno alle 4, poi alle 5, alle 7. In quanti siete in famiglia, scusami? Allora, che lavoriamo lì, siamo della famiglia, siamo in 5. Ok. Ah, però è una vera azienda familiare. Sì, è una vera azienda familiare. Poi andiamo sul russo nella steppa, però dimmi che formaggi freschi fate. Mozzarelle. Ah, solo mozzarelle? Sì, praticamente sì. Ma di bufala, fior di latte? Di latte vaccino, di latte vaccino. Latte vaccino vuol dire latte di vacca? Sì. Benissimo, sì, sì. No, lo dico perché l'ho scoperto quest'estate e quindi mi vanto di sapere che cos'è il latte vaccino. Invece, a differenza del latte di capra che si chiama latte... Caprino. Perfetto, benissimo, ce l'abbiamo fatta. Torniamo là, Roberto. Quanti anni fa erano esattamente? Era 10. Il 2004, quindi sono 10 anni. 10 anni fa, ti ricordi tutto? Molte cose mi ricordo, tutto non, probabilmente no, ma quasi tutto. Quanti giorni ci hai messo ad arrivare in bicicletta a Vladivostok? Ci ho messo 106 giorni. Quindi tre mesi e mezzo. 3 mesi e mezzo. Partito in che momento dell'anno? Sono partito a metà di marzo e sono arrivato a destinazione il 30 di giugno, mi pare, a fine giugno. Ma tu eri già un ciclista? Cioè, quantomeno ti piaceva la bicicletta? Sì, mi piaceva la bicicletta, ogni tanto, sempre da solo, non ho mai fatto gare o agonismo, okay, cose del genere, ma sono sempre, spesso andato. Però era la prima volta che facevi una roba di questo tipo? No, avevo fatto una cosa un po' più tranquilla, fino in Portogallo. Però quando hai detto che andavi a Vladivostok in bici, in famiglia come l'hanno presa? Quando l'ho detto praticamente ero già partito, per cui... Benissimo, che è il metodo migliore, cioè hai chiamato a casa dicendo ragazzi, non mi vedete per 3 mesi? Forse no, ho detto forse sto via un po' di più di quanto vi avevo detto precedentemente. In questo caso invece, veniamo proprio all'episodio, tu sei proprio... cosa c'era, una casa? C'era una casa in mezzo alla steppa o era un villaggio? No, era una casa isolata, lì dove la zona dove stavo pedalando non c'era quasi nulla, uh-huh. Era una zona semidesertica, pochissime macchine, nessuna casa, e il fatto che la zona fosse desertica era accentuata dall'andare in bici. Se fossi stato in macchina non avrei avuto particolari problemi perché le distanze si... Certo, in bici immagino sia un po' diverso. Tutto viene amplificato. Quindi tu proprio hai visto questa casa, ti sei fermato e... Salve. Ho bussato e mi è andata bene. È stata una cosa un po' surreale perché sono stato... È quasi come se tutto mi fosse stato mandato dalla provvidenza, diciamo, da qualche... mago buono. Insomma, da qualcuno che ti ha guardato. In che lingua avete comunicato tu e questo tizio? Abbiamo comunicato in russo perché più o meno me la cavo. Ah. Lo avevo un po' studiato prima di partire, poi durante il viaggio l'unica lingua possibile è il russo, non esiste l'inglese, per cui l'ho affinato, l'ho migliorato durante il viaggio. Senti, tra l'altro in questa scena, che non so se lo conosci, ma sembra uscita dal Sergente nella neve di Mario Di Gonister, quando lui arriva in questa capanna e ci sono in realtà degli ostili, cioè dei soldati russi che mangiano, e la tizia lo fa sedere, gli dà da mangiare, lui ringrazia e se ne va. Lui, quando ti dà da mangiare, come dire, te l'ha annunciato o ha dato per scontato che essendo tu lì dovevi mangiare qualcosa? No, era tutto molto strano, perché io non ho chiesto niente, ha fatto tutto lui, ha preso lì, probabilmente doveva mangiare anche lui, però io non ho capito poco di quella situazione, perché non era né una casa, una normale casa, sì, dove sì, chiaro, c'era qualcuno, né un ostello, un ricovero, non ho capito cosa fosse. Roberto, poi purtroppo ti devo salutare, sappiamo il nome di questa persona, gliel'hai chiesto? Non sappiamo niente, non gli ho chiesto niente. Forse non è mai esistito ed è tutto creato dalla tua mente in una notte di fame e buio in mezzo alla steppa russa. Grazie ancora Roberto, in bocca grazie al lupo, a ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. L'estate dopo il mio primo anno a Milano, con tre amici abbiamo deciso di fare teatro di strada. E così è nato il Circo Vramer. C'era il trombettista romantico, il clown muto, il capocomico con la frusta e io, che camminavo sui trampoli e parlavo svelto. Il programma era passarsi l'estate nei paesi di mare e fare due spettacoli al giorno. Viaggiavamo con due automobili e una tenda da usare in caso di necessità, però eravamo sempre riusciti a bivaccare da qualche amico. Però, nonostante l'organizzazione impeccabile, dopo tre settimane i rapporti fra noi cominciarono a scricchiolare a causa di una donna. Era successo che il capocomico ci aveva trascinato a casa di una che un po' gli piaceva, a Ferrara, a nostra insaputa, per preparare un altro spettacolo insieme a lei. Se volevamo, in cambio di vitto e alloggio per una decina di giorni, avrebbe inserito qualcuno dei nostri numeri nel suo spettacolo, altrimenti il Circo Vramer si scioglieva e ci si rivedeva a fine mese. Considerati i pro e i contro, abbiamo deciso di restare. Io ero quello che si lamentava di meno, a dire la verità. Mi ero portato tutti i racconti di Buzzati da leggere e soprattutto avevo ricevuto la stanza migliore. Gli altri due dormivano in cucina, buttando i cuscini del divano per terra. Io invece avevo la stanza singola di un fratello di quella che intanto era diventata la capocomica del capocomico. Una sera però, dopo che avevo fatto molto tardi in giro per Ferrara, insieme agli altri due accampati, io torno in camera, come le altre sere. Accendo la luce, come le altre sere, ma a differenza delle altre sere, trovo nel mio letto il legittimo proprietario della stanza e non lo trovo da solo. Quando tutti e tre realizziamo la situazione, facciamo a gara a chi è più imbarazzato. Io in un secondo sono in piedi, mi vesto perché mi sono presentato in mutande intanto, raccolgo lo zaino e faccio per uscire. La ragazza, per vincere il suo di imbarazzo, mi dice che non è il caso, e lui a sua volta, per non contraddirla, tira fuori un sacco a pelo, si butta per terra insieme a lei e mi dice che non c'è problema e spegne la luce. Al buio non vediamo più le nostre facce imbarazzate, però si amplificano i rumori. Io sto quasi in apnea per non disturbare, ma per il motivo inverso non riesco a fare a meno di stare con le orecchie allerta per intercettare il minimo fruscio. È quella notte che mi accorgo di quanta intimità ci sia nel dormire con un'altra persona. Il giorno dopo ho le occhiaie e la faccia pallida di chi non ha chiuso occhio, ma quando è il momento di andare a letto dico che non ho sonno, mi prendo le chiavi della macchina per andare a fare un giro. In realtà la mia intenzione è quella di andarci a dormire dentro. Solo che non avevo calcolato che la macchina era una vecchia Polo a due posti, quelle con il cassone dietro, e i sedili non si potevano abbassare. Quindi mi leggo un racconto di Buzzati e mi addormento con la testa sul volante. E alla fine della storia di Roberto ho capito che, primo, Andreotti non aveva ragione. A pensar male non sempre ci si azzecca. Secondo, la terza classe, almeno sulla Transiberiana, esiste ancora. Terzo, se una sera un ragazzo vi bussa alla porta di casa e vi dice che sta andando a Vladivostok in bicicletta, potete anche credergli. Quarto, la hit del viaggiatore non è per forza io, vagabondo che sono io. E soprattutto, quinto, dormire con degli sconosciuti non è facile, ma dormire in macchina con la testa sul volante è molto peggio. Old dead crowds. Nel bivacco Aldo Moro sull'Agorai, con tre tedeschi che non parlavano inglese, un incubo, parlavamo a gesti. 349-238-6666, prima di salutare tutti, a 19 anni, quasi 20, ho passato una notte nello scompartimento di un treno fermo alla stazione di New York, le porte sigillate e dentro un tipo strabico che non faceva nulla, ma ogni tanto mi guardava. Terrore puro. Grazie ancora a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Ina e Mauro Pescio. Grazie soprattutto a Roberto, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Silvia, vivo a Milano, la storia di domani è la mia e parlo di cosa è stato Mussolini per me. Questa è la mia storia e io sono qui.